IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Per questa puntata di intelligenza artificiale in prima linea dovete stare attenti e attente, mi raccomando, perché trattiamo un aspetto dell'intera vicenda che è molto importante. Se state guidando, accostate; se state facendo una nuotata con la vostra radiolina impermeabile, tornate a riva; se state facendo un furto in una casa, fermatevi, tanto sono solo 10 minuti. Allora, ci sono fenomeni intorno a noi, usiamo pure questo termine, fenomeni naturali o artificiali, cioè creati dall'uomo, che possiamo capire solo se siamo in grado di interpretare i dati che li riguardano, e quindi dati che il fenomeno stesso ci invia, in un certo senso. Una porta che cigola, per esempio. C'è qualcosa che si è incastrato in basso nel lato che scorre sul pavimento? Questo è un dato. Oppure i cardini con i quali è appesa al muro, bisogna metterci un po' d'olio, è un altro dato. Ce ne sono altri di dati? Direi di no. Sono due, banale trattarli. Se avessimo a che fare con un fenomeno che ne ha 40 di dati, va bene, la vicenda è un po' più complessa. Ma se sono 10.000 che poi si accoppiano fra di loro questi dati, lussuriosi come sono e perversi, ecco che il problema comincia a diventare molto complicato. Antonio Catapano, benvenuto. Salve a tutti. Dunque, lei lavora in una startup. Il nome della startup qual è? Wenda. Wenda, basata a Bologna. Voi fate un lavoro che si concentra sul settore agri-food, e in particolare adesso noi parleremo di vino e di bottiglie di vino. Sembrerà strano, dai vini noi possiamo ricevere, se vogliamo e se siamo capaci, una quantità di dati micidiale. Soprattutto, no, mi dica se sbaglio, nel momento in cui andiamo a vedere che cosa può succedere a una bottiglia quando è pronta, lì, fatta, imbottigliata, tappata, quando viene esposta, quando viene trasportata in modi molto diversi, perché può passare da treni, camion, navi, aerei. Certo. Stiamo parlando di un settore italiano che esporta in tutto il mondo. Voi avete inventato un meccanismo che riesce a darvi, a seguire tutto questo percorso della bottiglia, quindi delle bottiglie. Abbiamo inventato un dispositivo che può seguire o la singola bottiglia o può seguire direttamente l'unità logistica, quindi il pallet, la scatola dove il vino viene inserito, le bottiglie di vino vengono inserite e pronte per essere spedite in tutto il mondo. Siccome il vino è un'entità viva, è soggetto a alterazioni dovute a tanti fattori, che possono essere il caldo, che possono essere la movimentazione, il caldo e il freddo anche, no? Esatto. Temporanee esposizioni alla luce che poi possono diventare anche permanenti, perché a un certo momento viene messo in uno scaffale. Lei ha detto poco fa una cosa molto interessante. Dobbiamo guardare al vino come a un fenomeno, va bene che un po' è artificiale perché lo creiamo noi, però è un fenomeno naturale che ha una sua vitalità, non è una roba chiusa lì che quindi una volta fatta è finita. Assolutamente sì, perché il vino continua ad evolvere. Si pensi soltanto ai vini di invecchiamento, che appunto già, più passa il tempo, quelli che sono proprio vocati all'invecchiamento, più passa il tempo e più diventano oggetto di interesse da parte di tanti, dal wine lover fino agli investitori, collezionisti, che vedono proprio in questa evoluzione la capacità di avere un prodotto che vale di più. Il wine lover, l'amante di vini, quello che beve, esatto, con una certa partecipazione, ma stiamo parlando di centinaia di milioni di persone. Questa capacità di controllo dell'evoluzione della bottiglia o delle tante bottiglie può essere estremamente utile per vedere degli effetti di, per esempio, deterioramento, questo è evidente, ma è anche molto importante per avere qualità migliori, no? Per creare delle condizioni in cui la bottiglia, quindi il vino, non sia sottoposta a variazioni forti. Però qui abbiamo a che fare, cioè avete a che fare, con davvero una quantità di dati impressionante, perché poi ci sono i bianchi, i rossi e anche i rosé. Poi però ci sono tanti tipi di rossi, tanti tipi di bianchi. Voi avete un obiettivo ambizioso, ed è giusto avere obiettivi ambiziosi, perché pensate di riuscire a maneggiare, centinaia di migliaia di dati. E dov'è che c'è allora l'intelligenza artificiale qua dentro? Allora, il discorso dell'intelligenza artificiale si sposta nel momento in cui noi questi dati li cerchiamo di trasformare in informazioni per l'utente. Cioè? Questi dati vengono passati in algoritmi che possono predire in qualche modo come la bottiglia è evoluta e quindi intervenire anche prima per correggere eventuali fenomeni che possono portare a far guastare, mi lasci dire tra virgolette, l'evoluzione del vino. E o a migliorare, perché certo, il trasporto è... Ma allora questo vuol dire che noi la capacità, questa potenzialità del vino, questi tantissimi suoi aspetti, non li conosciamo, non possiamo conoscerli così come abbiamo fatto fino adesso. Se però con il vostro sistema di monitoraggio si riescono a recuperare tanti dati e ci sono degli algoritmi che li leggono, il vino ci parlerà in un modo in cui non ci ha mai parlato. Certamente, diciamo che una delle nostre esperienze che venivano proprio a monitorare dei vini bianchi, c'era un signore che mi disse: se noi riusciamo a correlare l'evoluzione del vino, e quindi quando il vino viene trattato male, con i fenomeni fisico-chimico che avvengono durante l'esposizione del vino a alla luce, al sole, quindi a temperature elevate, a shock termici, forse si potrebbe riscrivere la storia della la Bibbia del vino. E quindi vuol dire che in effetti siamo appena alle origini di capire in qualche modo come questi dati possono essere utili a comunque mantenere quella qualità che viene fuori dal momento in cui il vino viene fuori dalle cantine, perché i produttori sono i più bravi a far sì che il vino abbia le sue qualità. Se il vino è di un certo tipo, evolve esaltandone queste qualità, e tutti gli effetti di trasporto, di movimentazione, di stoccaggio, se non fatti correttamente, possono soltanto danneggiare questa qualità. Il nostro sistema si prefigge, vuole andare nella direzione di aiutare a mantenere la qualità del vino, perché alla fine il cliente, il consumatore, il wine lover, chi arriverà davanti alla sua bottiglia di vino sia davvero contento. Dobbiamo aspettarci fra una decina d'anni che nelle facoltà, nei dipartimenti di agraria ci sia un corso di fisica del vino che avrà magari anche un bel manualotto di 300 pagine. Speriamo anche prima. Speriamo anche prima, perché voi avete già... Un settore molto in evoluzione. È molto in evoluzione. Tra l'altro, qui dobbiamo ricordarlo, va nella direzione, questo tipo di nuove strumentazioni applicate all'agri-food va nella direzione della migliore innovazione italiana, perché, come abbiamo ripetuto a volte, l'Italia deve lavorare sulla qualità delle sue cose, non certo sulla quantità. Però parliamo di intelligenza artificiale, perché voi volete mettere in moto degli algoritmi che abbiano la capacità, come dire, di lavorare da soli e poi mano a mano restituirvi il dato pregiato. Degli algoritmi che in qualche modo, specificando bene tutte le condizioni al contorno, possano imparare, in qualche modo autoadattarsi, per dare un indice di qualità di quello che potrebbe essere un viaggio, una spedizione, in modo da tenere sicuro il produttore e l'importatore o qualunque attore della filiera che le informazioni che ricevo sono andate nella direzione della protezione delle bottiglie di vino. Certo. E quindi vediamo questo concetto, diciamo, di evoluzione, di l'utilizzo dei big data, i sistemi IoT e l'intelligenza artificiale come un nucleo che, lavorando insieme sugli stessi dati, possano produrre queste informazioni ad uso di tutti gli attori della filiera. Io la ringrazio, perché ci ha dato modo, Antonio Cattapano, di parlare di intelligenza artificiale e vino, che probabilmente è una cosa che non si aspettava nessuno. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro. E voi direte: sulle cipolle non ci dici niente, o sulle ben più complesse lasagne non vorrai mica dirci che nelle lasagne non ci sono cose intelligenti da capire. Non lo so, vediamo. Buona intelligenza a tutti e a tutte. Se volete scrivere, intelligenza artificiale radio24.it, ma è intelligenza artificiale, ci sono due A.